tutte e tutti e bentornate a Ubuntu, a Uru, scusate. E, la trasmissione che parla di musica africana, di suoni e qualche notizia. E, vi ricordo che il venerdì appunto alle 9:30, anche se stasera siamo leggermente in ritardo, va la diretta, la replica è la domenica alle 23 e il lunedì alle 8:30 di mattina. Quindi se ci volete riascoltare avete altre due opzioni. Eh sì, ricordiamo anche i social della radio. Profilo Twitter, twitter.com/radiowombat.fi, la mail postawombat@insiberia.net, inoltre il sito, vi ricordiamo, wombat.noblogs.org, da dove state ascoltando in streaming la nostra trasmissione, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, e nello stesso sito ci sono il palinsesto, le notizie della radio, le descrizioni delle trasmissioni e soprattutto c'è una pagina podcast rinnovata tra l'altro recentemente, da cui potete riascoltare oppure scaricare e riascoltare successivamente i podcast della radio. Ricordiamo anche, questo non lo facciamo mai, che abbiamo anche una propria app, cioè un'app per ascoltare Radio Wombat, che trovate sulla sinistra del sito, dove c'è scritto ascolta in streaming, ecco lì c'è scritto app, ci cliccate sopra, automaticamente esce fuori il link, subito la possibilità di scaricarla, poi la scaricate dentro il telefonino, in questo caso è un'app solo per Android, e poi la lanciate per installarla, così come tutte le altre app. Un'app semplice, qui c'è soltanto l'ascolto della radio in streaming e la possibilità di chiudere, di spengere la radio. Prossimamente, non sappiamo quando, ci saranno ulteriori novità, per intanto c'è questa. E questa è la 52esima puntata di Uru, dedicata a una nazione, un luogo, un posto in cui tra l'altro c'è un tipo di musica che diciamo preponderante, ecco, rispetto alle altre. Parliamo del Niger, questo paese che si estende a sud del Sahara, e che appunto per due terzi è deserto, e in cui appunto c'è il deserto del Tenere, che è la parte più settentrionale, il deserto del Sahara in questo caso è il Tenere, che è nella parte più settentrionale del Niger. Sono due terzi deserti e un terzo non deserti, proprio perché fruisce, diciamo così, dei benefici di questo grande fiume del Niger, che nel tratto nigerino fa da confine per tantissimi chilometri con il tratto, con la parte nigeriana, e appunto lungo questo o nelle vicinanze di questo tratto di fiume, di questo tratto del Niger, ci sono le città più importanti e quindi anche quelle più popolose, e quindi la stragrande maggioranza della popolazione del Niger vive nel sud del paese, in un terzo diciamo di quello è di tutta l'estensione della nazione. E anche se non è l'etnia più maggioritaria, l'etnia maggioritaria sono gli Hausa, e c'è l'etnia diciamo più musicofona, più conosciuta a livello musicale, anche perché appunto vivono non di musica, ma anche di musica. Parliamo appunto dei Tuareg, del popolo Tamashek, e molti dei pezzi che vi faremo ascoltare oggi sono appunto cantati, scritti, interpretati da musicisti Tamashek che stanno portando, in cui tra l'altro la loro musica per loro significa anche e difendere la loro cultura, tant'è che molti dei gruppi musicali, e quindi anche molti dei pezzi che vi facciamo ascoltare, ma in generale dei pezzi incisi o comunque cantati, suonati nei vari festival, specialmente che si svolgono in Niger o anche in Mali, sono proprio derivanti dal periodo dall'inizio degli anni 90, in cui è stato questo movimento di liberazione dei Tuareg, dei Tamashek, che poi dopo è stato sconfitto da un lato dagli eserciti statali del Mare e del Niger e dall'altro lato dall'avanzata dell'Islam radicale, Al-Qaeda e via dicendo. E il primo gruppo di cui vi facciamo ascoltare un pezzo è Group Bambino, che appunto è uno dei più conosciuti dal punto di vista non soltanto musicale, ma anche dal punto di vista delle rivendicazioni culturali, sociali e politiche. Il Gruppo Bambino è un gruppo musicale di Agadez, che è appunto la capitale, non del Niger, ma diciamo del Tenere, del Sahara nigerino, ed è fondato da chitarrista Omar Mokhtar, e include alcuni membri del gruppo Inarana. Era un vecchio gruppo sempre formato da musicisti Tamashek e Tuareg, che eseguivano musica Tuareg, e la loro musica consiste su ballate con un uso della chitarra, un uso particolare della chitarra, ballate politiche sostanzialmente, e contro il governo appunto del Niger e del Mali, e a favore della ribellione del popolo Tuareg. Vi facciamo ascoltare Tenere, appunto, che è il nome, il titolo di questo pezzo, e che appunto si rifà direttamente al deserto in cui loro vivono. Thank you. proposito del paese di cui stiamo parlando, cioè il Niger, e della città che abbiamo appunto nominato, Agadez, che è stata confrontata spesso con Lampedusa in Italia per via dei migranti. Agadez infatti è un miraggio di salvezza e speranza per migliaia di migranti che sfuggono a guerre, carestie, fame e disperazione, per ritrovarsi invece cadaveri tra le sabbie del Sahara, come invece succede a Lampedusa nelle acque del Mediterraneo. Naturalmente sono vittime delle miopi politiche europee che contribuiscono direttamente a incentivare canali di immigrazione clandestina anziché istituirne di legali. Ultimamente il Consiglio regionale di Agadez ha lanciato l'allarme alla comunità internazionale, al governo del Niger in particolare, sul dramma continuo di migranti che a dozzine vengono trovati morti nel deserto del Sahara, abbandonati lungo il viaggio sulla rotta del Mediterraneo che porta al Mediterraneo centrale e che passa appunto da Agadez e va verso la Libia e le coste europee, soprattutto italiane. Il deserto del Tenere, appunto, nel Sahara centro-meridionale, sta diventando un vero cimitero a cielo aperto, soprattutto da quando nel 2015 e 2016 il governo di Niamey, la capitale del Niger, quindi il governo del Niger, ha introdotto una legge e adottato misure repressive contro chi trasporta i migranti da Agadez verso i confini del Niger. Ricordiamo che queste leggi fanno sempre parte di una delle politiche europee che cercano sempre di fare accordi con stati pure schifosi come la Turchia per fermare i migranti, e così con il Niger. Quindi i passer, che sono quelli che trasportano i migranti, praticamente questi provvedimenti li hanno portati ad abbandonare le vie tradizionali di attraversamento del deserto per cercarne di nuove, naturalmente più pericolose. L'instabilità interna e nei paesi limitrofi, la Nigeria, la Libia e Mali, dove sono attivi gruppi terroristici come Boko Haram in Nigeria, Al-Sharia, Hakim e Mujahideen, cioè tutti di derivazione Al-Qaeda, la siccità, le alluvioni, l'istituzione di una zona di libera circolazione di merci e persone dagli stati dell'ECOWAS, la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, sono fattori che fanno del Niger tanto un paese di origine, ma soprattutto di transito e destinazione per poi partire attraverso il deserto e tentare di arrivare soprattutto in Libia. Naturalmente poi la Libia, che è diventata la più instabile di quelle che abbiamo detto, è un'altra di quelle cose che porta i migranti a rimanere, come sappiamo, prigionieri nelle prigioni libiche, ad avere a che fare con la guardia costiera libica, eccetera, sempre per conto della comunità europea. In Niger, pensate che è il quarto produttore mondiale d'uranio, e ne abbiamo parlato a proposito della Francia, che è quella che detiene queste miniere, è uno dei paesi più poveri al mondo, perché naturalmente queste concessioni sono date a paesi come la Francia e non ne viene niente agli abitanti. Qui infatti l'uranio non ha arricchito la popolazione, ma ha fatto di Areva, questa multinazionale francese, per l'87% di proprietà dello Stato, uno dei maggiori colossi di energia atomica e della Francia, che dipende dal nucleare per tre quarti della sua elettricità, il miglior alleato militare nella lotta a Boko Haram. Ci sono voluti 2 anni di negoziati difficili affinché nel 2014 Areva rinegoziasse un accordo del governo di Niamey che impone al colosso francese di pagare il 12% delle royalty, perché pensate, precedentemente Areva pagava soltanto il 5,5%. E questo 12% dovrebbe portare nelle casse del Niger circa 40 milioni di dollari annui, che poi sostanzialmente sono briciole. In cambio il prezzo pagato dalle comunità locali e dall'ambiente è incommensurabile. Il livello di radioattività nell'acqua, che poi è anche redistribuita alla popolazione intorno alle cittadine, per esempio di Arlik e Akokan, che sono a pochi chilometri dalla miniera di Areva, superano i limiti ammessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E le stelle e la tradizione, che appunto in Tamashek, in Tuareg, viene tradotto, è tradotto, è Tranfinatawa, è appunto il gruppo musicale di cui vi faremo ascoltare il prossimo pezzo, e la particolarità è che in questo caso non è composto soltanto da musicisti di etnia Tuareg, ma anche di etnia Wudabe. La band si è formata nel 2004 durante il Festival del Deserto di Essakane, ne abbiamo parlato nella trasmissione precedente, quando abbiamo fatto ascoltare un pezzo live di Ale Farkature, che appunto era stato eseguito al Festival Tuareg di Essakane. Sono stati il primo gruppo a utilizzare le canzoni e la musica del popolo Wudabe in un contesto moderno. Erano inizialmente 10 musicisti, hanno appunto voluto unire le due culture nomade come simbolo di pace. Attualmente sono 2 musicisti Tuareg e 3 Wudabe. C'è da tenere presente la musica delle due tribù, pur essendo ambedue tribù nomadi, è molto diversa, ma il modo in cui è stata miscelata insieme ha prodotto un suono ipnotico, un nuovo stile musicale di quello che viene chiamato o viene etichettato blues nomade, blues dei nomadi, blues del Sahara. Le loro canzoni, come molto spesso nel caso di musicisti o band Tamashek, Wudabe o comunque del Niger e del Mali, raccontano storie di vita nomade, di isolamento e di libertà, di disagio, povertà estrema, il clima rigido, in questo caso un clima caldo, secco, rigido. Il Niger tra l'altro è una, se non il paese più caldo del mondo, una media più o meno di 28 gradi durante tutto l'arco dell'anno. Giorni felici, feste, famiglie, stelle, tempeste nel deserto e chiaramente anche la lotta del popolo Tamashek e anche del popolo Wudabe per mantenere le proprie tradizioni, che tra l'altro sono particolari sia per il popolo Tuareg ma anche e soprattutto per il popolo Wudabe, di cui magari successivamente ve ne accenniamo. E vi facciamo ascoltare degli Tranfinatawa, delle stelle del deserto, appunto Kel Tamashek, che proprio è un pezzo dedicato al popolo Tamashek. Yeah. Di anticipo per darvi tempo di prepararvi e poi ve ne riparleremo anche più nelle vicinanze, vi anticipiamo una serata che ci sarà al CSA Nest Emerson di via di Bellagio 15, una serata che è il 25 di maggio che sarà dedicata ai Sahrawi. Questo popolo, la lotta di questo popolo dimenticato, e ci sarà una cena fatta con un benefit per un collettivo di donne Sahrawi e la presentazione di un fumetto su Mariem Hassan, una delle grandi cantanti Sahrawi deceduta qualche anno fa, un fumetto che naturalmente che si intitola appunto Io sono Mariem Hassan, Io sono Sahrawi, che prende lo spunto della vita di questa cantante naturalmente per parlare anche della lotta del popolo Sahrawi in tutti questi anni. E la serata sarà appunto il 25 maggio, successivamente ci sarà musica sempre con questo tema africano il 25 maggio, poi ne parleremo più là per bene, però già segnatevi la data per Benefit Sahrawi il 25 di maggio al CSA Nest Emerson di via di Bellagio. E appunto precedentemente abbiamo sottolineato che questo gruppo di Tranfina Tawa, di cui appunto avete ascoltato il brano Kelta Mashek, è formato da musicisti Tuareg o musicisti Wudabe, di etnia Wudabe, e questa etnia Wudabe è particolare sia da un punto di vista proprio somatico come tratti e anche da un punto di vista sociale, artistico, culturale. I Wudabe che a volte sono chiamati, anche se viene considerato un termine dispregiativo, a volte sono chiamati Bororo, che appunto significa pastori con gli stracci, appunto da loro viene considerato un termine dispregiativo. I Wudabe appunto sono una sottoetnia, diciamo una derivazione, ecco, soprattutto da un punto di vista degli usi e dei costumi del popolo Fulani, che a sua volta nel Mali vengono chiamati, denominati Peul, e come nel Mali anche in Niger conducono tuttora una vita nomade, e tra l'altro li porta ad essere presenti non soltanto in Mali o in Niger, ma anche negli stati vicini, in particolare nel Chad. E questo, tra l'altro, questo nomadismo sia dei Wudabe che dei Tamashek, dei Tuareg, porta cioè non conoscono confini, per cui per esempio tutti questi musicisti che vi faremo ascoltare oggi sono magari nati in Niger, poi magari tuttora risiedono in Algeria, da un punto di vista proprio della geografia politica, non tanto da un punto di vista della geografia geografica nel senso stretto, nel senso vivono nel Sahara. E appunto questi Wudabe sono un'etnia particolare, si spostano con il loro bestiame e vivono in capanne di rami, e le loro migrazioni li portano dal sud del Niger al nord della Nigeria, al nord-est del Camerun, al sud-ovest del Chad, e fino ad arrivare addirittura alla Repubblica Centrafricana, oltre che nel nord del Mali. E da pochi anni hanno iniziato anche a spostarsi nella Repubblica Democratica del Congo, nelle regioni dell'Uele, che è un fiume, uno dei fiumi più grossi, più grandi, più lunghi della zona, e che fa la frontiera tra il Centrafrica e il Sudan. E una particolarità è che in autunno si radunano per una festa chiamata Gerevol, durante la quale le ragazze scelgono il fidanzato fra tutti i ragazzi presenti. Quindi una particolarità, diciamo, che tra l'altro determina, diciamo, tutta la vita della famiglia che si forma, quindi una sorta di in cui la donna è come dire, quella che sceglie, e che tra l'altro non solo determina la vita e il percorso della famiglia, ma chiaramente, essendo un popolo formato da più famiglie, anche di tutto il popolo Wudabe. Tra l'altro, la natura nomade di questo popolo non permette un'enumerazione chiara della sua popolazione. Nell'83 venivano stimati in 45.000 i Wudabe, ma negli anni 2000, mediante una specie di censimento effettuato da una ricercatrice dell'Università di Lussemburgo, valutava il loro numero in più di 100.000 persone. Tenete presente, nel frattempo, dall'83, in cui venivano stimati in 45.000, a il 2000, in cui venivano stimati in 100.000, nel frattempo ci hanno avuto grossi problemi, e quindi probabilmente è vero che il numero sia diminuito. Quindi molto probabilmente nell'83 non era stato, probabilmente anche perché c'erano mezzi tecnici, mezzi di locomozione molto peggiori di quelli di adesso, diciamo, non erano stati censiti, o se non altro censiti solo in parte. Sono i Wudabe tradizionalmente musulmani, però, diciamo, hanno delle pratiche, tra cui per esempio quella che sono le donne che scelgano il marito, molto spesso non seguono i precetti dell'Islam, e tra l'altro loro stessi la considerano, pur essendo la religione di riferimento per loro, la considerano un po' una religione portata da conquistatori, ecco. Un po' come per, molto spesso nel contesto dell'Islam, della religione musulmana, impiantano tutta una loro religione di derivazione chiaramente animista, che trasfigura sotto certi aspetti quella dell'Islam tradizionale. Tra le altre cose, per esempio, durante questa festa del Gerevol, molto spesso le donne già sposate si appartano, diciamo così, tra virgolette, con altri uomini. Ecco, per cui il rapporto, diciamo, tra i due generi non è quello tradizionale, né dell'Islam né tra l'altro del cattolicesimo. Tra l'altro, questa cosa noi l'abbiamo vista e sentita anche in Mali, tra i Fel del Mali, infatti anche lì le donne avevano un atteggiamento verso la sessualità decisamente aperto, e gli uomini lo stesso, nel senso, se la propria donna andava con qualcun altro, insomma, non è che era un problema. Quindi effettivamente c'è una grossa differenza con l'Islam tradizionale, ma anche negli stessi vestiti, costumi e così via. Per esempio, le donne sono tranquillamente spogliate, hanno tatuaggi, hanno dei bellissimi tatuaggi, e per esempio quando si spostano da un posto all'altro, sono le donne che portano le mandri, sono su questi asini che che vanno avanti, diciamo, che camminano, loro li cavalcano al lato delle mande. Hanno avuto un grosso problema la siccità negli anni 70, che ha fatto vacillare l'equilibrio ecologico della regione proprio in una maniera pesantissima, ma sono riusciti a ripristinare gradualmente il bestiame che era morto, diciamo, perché tra l'altro la siccità per loro non rappresenta tanto un problema per loro stessi, essendo abituati appunto a vivere nel deserto, quanto per il loro bestiame. E quindi un popolo in cui la tradizione in questo caso significa apertura, significa uguaglianza di genere, un popolo con questa tradizione e con una certa saggezza, che queste sono la spina dorsale di questo popolo coraggioso. Ecco. Se digitate Wahadabe, sì, su Google immagini e vedete un po' quelli che sono i loro costumi, quelli che sono le loro danze durante questa festa, che poi sostanzialmente la festa che celebrerebbe l'inizio delle piogge, quasi mai non ci sono, però quello dovrebbe essere l'inizio delle piogge. Di loro vi facciamo ascoltare proprio di un musicista a Wahadabe, si chiama Bamango Agonla, che suona con Tankari, Wahadabe Blues, è proprio un pezzo della tradizione Wahadabe a cui gli è stato aggiunto il nome blues proprio perché lo è. Thank you. Jupiter e Rambi con raccordo. Quattro Rambi sono raccordo con Kai. Ai guarda la Jupiter Kai. Il prossimo pezzo invece è di una band originaria di Niamey, la capitale. Sono attivi dal 95 e fanno praticamente una fusione di musica africana con il jazz. Il loro nome è Mamar Kassei, appunto una band jazz pop etnica del Niger. Prende il nome da un guerriero leggendario che estese l'impero Songhai nel Sahara. Vi ricordo che i Songhai sono invece la parte dedica all'agricoltura del popolo nigerino. Il leader della band è il cantante e flautista Yakuba Mumuni. Il gruppo combina appunto tradizionali ritmi Hausa, Germa, Fulani e Songhai, strumenti come il molo, che è un liuto con il corpo coperto di pelle, e strumenti moderni come il basso elettrico. Il suono include anche un accenno al jazz occidentale, la musica marocchina e latina. Sono un gruppo di 8 elementi formati appunto principalmente da Mumuni e dal chitarrista Abdallah Lassane, che sono sempre presenti. Hanno pubblicato 2 album e sono conosciuti a livello internazionale, uno dei pochi gruppi musicali nigerini appunto conosciuti a livello internazionale, ma sono molto amati nel loro paese, cioè il Niger. Nel 2004-2005 hanno suonato con un gruppo di musicisti folk bretoni con il nome di Makida Palabre, appunto la collaborazione comprendeva dei musicisti bretoni che suonavano strumenti tipici breton celtico, e a cui loro aggiungevano invece la parte africana. Hanno tra l'altro collaborato ad un album che si intitola Via Campesina, edita da Armonia Mundi nel 2006, che è una cosa molto buffa. Vi facciamo ascoltare Full Begari, e cioè l'arrivo dei Pel, Mamar Kassei. Oh. Era Fulbegari, ma marca a sé, Fulbegari, l'arrivo dei Pearl, proprio appunto a sottolineare quando questo popolo nomade arriva in un posto in cui poi si stabilisce per un periodo di tempo determinato, questo popolo nomade con tutti i suoi armenti. E, parliamo di Nagona. Nagona è un piccolo insediamento, si trova a circa 150 km da Nampula, nel nord del Mozambico, un villaggio di pescatori che appunto si affaccia sull'Oceano Indiano, e questo piccolo insediamento ha la particolarità che si trova all'interno di una concessione mineraria rilasciata nel 2011 dal governo di Maputo alla compagnia cinese Hainan Haiyu Mining Company, la MITED, e questa compagnia estrae sabbia di minerali pesanti come l'ilmenite, il titanio e lo zirconio. Ha iniziato i lavori di estrazione circa 3 km a nord del villaggio e in seguito ha continuato a cambiare siti, spostandosi verso sud, spianando dune di sabbia naturale, distruggendo la vegetazione e generando immensi cumuli di detriti, frutto del dragaggio del sottosuolo che hanno ricoperto con lagune e corsi d'acqua. Nel 2015 una devastante inondazione ha colpito la zona, radendo al suolo praticamente tutte le case di questi pescatori e danneggiandone, lasciandone in piedi soltanto un centinaio, seppur danneggiate, e lasciando quasi tutto il migliaio di abitanti senza mezzi di sostentamento. All'inizio di aprile Amnesty International, attraverso un'indagine intitolata «Le nostre vite non contano niente», ha accusato la IUI, questa compagnia mineraria cinese, di aver significativamente contribuito a questo disastro e di aver messo il villaggio di fronte al serio rischio di essere inghiottito dall'oceano proprio per i lavori di estrazione di questi minerali. E non solo, sempre secondo questa inchiesta «Le nostre vite non contano niente», non sarebbe stato fatto neppure uno studio di impatto ambientale adeguato, né sarebbe stata consultata la popolazione prima dell'inizio dell'operazione di sfruttamento, come tra l'altro richiederebbe la stessa legge mozambicana del Mozambico. La compagnia cinese ha rifiutato ogni tipo di responsabilità, affermando che si è trattato di un fenomeno meteorologico eccezionale che non si verificava da almeno 100 anni, cosa falsissima tra l'altro, perché le inondazioni nel nord del Mozambico si verificano quasi mai, e comunque ne dovevano tener conto. Le immagini appunto satellitari pubblicate nel rapporto mostrano come tra il 2010 e il 2014 la conformazione del territorio intorno a Nagona, questa cittadina, questo piccolo insediamento di pescatori, si è cambiata alterando i corsi d'acqua che collegavano le lagune. In una foto del 2014 si nota come almeno 280.000 metri quadri di territorio, 280.000 metri quadri di territorio, sono stati ricoperti di sabbia, un canale completamente ostruito. Questa sabbia sarebbe quella che appunto viene la risulta, diciamo, dello scavo, no? Prima di arrivare al minerale viene tolto la parte, lo strato precedente, lo strato superficiale, che in questo caso è composto appunto di sabbia. E quindi ora, anche se la IUI afferma di aver concluso le attività in quella zona, la popolazione del villaggio è a rischio perché l'equilibrio idrogeologico è stato sconvolto. Il quotidiano mozambicano O País ha intervistato il consulente ambientale della IUI, il quale, pur di fronte alle prove di Amnesty International, ha negato che ci fosse un rischio per la popolazione. La solita faccia di tollo appunto di questi consulenti, che siano ambientali o che siano finanziari, mentre invece le organizzazioni della società civile mozambicana da tempo insistono sulla necessità di interrompere l'attività della IUI, e a metà del mese scorso il Centro per l'Integrità Pubblica l'ha chiesto direttamente alla Commissione parlamentare per l'ambiente, il quale nel frattempo non ha solo promesso e non ha fatto niente. Il villaggio chiede una bonifica del territorio, una compensazione per i danni subiti, ma le offerte fatte alla compagnia cinese sono state una riparazione pari a 52 euro per chi nel 2015 ha perso una casa di legno e 261 per le costruzioni in muratura, tutti i danni causati da loro. Ovviamente la popolazione ha rifiutato, sostenendo, come ha detto appunto, uno dei principali personaggi che portano avanti questa protesta contro questa compagnia mineraria, ha detto che queste proposte sono assurde e vogliamo una compensazione giusta, perché tra l'altro l'industria estrattiva, cioè in questo caso questa ditta Ayui cinese, trae profitto dalle persone. Ma anche le istituzioni mozambicane hanno le loro colpe. Ci si domanda, per esempio, e se lo domandano, è stato chiesto, come la Ayui abbia potuto iniziare le sue attività senza passare attraverso i procedimenti previsti dalla legge e senza mai consultare la popolazione locale, e come non siano stati presi neppure provvedimenti, neppure appunto dopo il disastro 2015. Ilario Rea, che è uno dei principali animatori delle lotte ambientali, è un studioso di impatto ambientale, ha dichiarato che il paese ha una legislazione che a volte presenta delle lacune quando si tratta di impianto ambientale, ma non in questo caso, e quindi in questo caso è appunto la responsabilità è tutta non della legge, mancano, ma delle leggi non sono state fatte rispettare, cioè del connubio, diciamo, d'affari tra l'istituzione e la società mineraria Ayui. Si tratta di aziende legate, sono a partner economici come la Cina, e quindi le loro interessi sono anche gli interessi dei politici, dei politicanti. Tant'è che infatti va tenuto presente che gli scambi commerciali con la Cina sono cresciuti del 24% solo nei primi mesi del 2018, raggiungendo i 33,5 milioni di dollari. Questo tenuto presente un paese con pochissimi mezzi economici come il Mozambico, sempre di più queste aziende sono quelle che dettano quello che deve essere fatto, sia da un punto di vista ambientale, sia da un punto di vista economico e finanziario. Passiamo adesso ad un altro artista nigerino, Maname Barka. Maname Barka è nato Tesker, una città nell'est del Niger, e viene da un popolo nomade, Itubu. Come suonatore di ngurumi, uno strumento a pizzico a due corde, ha guadagnato popolarità nella sua terra natia, cioè a Tesker, poi in tutto il Niger, e si è spinto fino alla Nigeria. Nel 2002 ha deciso di dedicarsi allo studio del biram, che è uno strumento a cinque corde che viene usato dai Buduma, un popolo di pescatori sul lago Chad, che lo usa per canzoni tradizionali. Il primo contatto con questo strumento musicale Barka lo ebbe nel 98, quando accompagnò un musicologo che voleva esaminare appunto le diverse tradizioni musicali dei diversi gruppi etnici del Niger, e andarono appunto sul lago Chad. Tra la gente di Budoma incontrarono un personaggio, cioè Bukhar Tar, che probabilmente era l'ultimo suonatore, l'ultimo biramista dell'epoca, per insegnare loro il significato speciale di questo strumento nei miti tradizionali dei Budoma. Tar, tuttavia, non ha deplorato il basso interesse dei giovani del suo popolo in queste tradizioni antiche, e temeva che la conoscenza di questo strumento potesse morire con lui. Quindi, su suggerimento del musicologo Maname Barka, in seguito ha deciso di essere istruito dal vecchio maestro dello strumento nella lingua e nei riti dei Budoma, e naturalmente nello stile del biram. Il biram, come detto, è uno strumento a cinque corde ad arpa, e appunto suonato da questo popolo ricorda una piroga, cioè la barca da pesca tradizionale, e effettivamente era suonato originariamente solo da questo popolo, perché richiedeva un'iniziazione e una conoscenza tradizionale della tradizione, diciamo. E Maname Marka sottolinea invece il valore musicale del Biram come strumento musicale di tutto il Niger e che chiunque può suonarlo. Di lui ci sentiamo Mashi. Maname Marka con il suo Biram, appunto a tutto Biram. Il pezzo si intitolava Mashi, è proprio uno dei pezzi in cui si coglie appieno, ecco, la particolarità di questo strumento. E questo era l'ultimo pezzo per questa puntata di Uru, suoni, musica e notizie dal continente africano. Ricordiamo che oltre ai social di Radio Wombat potete avere notizie sia della trasmissione, ma soprattutto di quello che succede, alcune notizie di quello che succede in Africa, anche attraverso il profilo Twitter. La trasmissione ha un proprio profilo Twitter, uru-rv, che sta appunto per Uru di Radio Wombat. E ci risentiamo in diretta venerdì prossimo alle 21.30 e vi ricordo anche che potete riascoltare il podcast di questa trasmissione tra qualche giorno, delle altre su wombat.noblogs.org nella sezione podcast, e che le repliche vanno in onda la domenica alle 23 e il lunedì alle 8.30 del mattino. Ciao a tutte e tutti. La prossima settimana.